No, no, no, no, non è la stessa cosa. Conte lamenta un fuoco amico e Pirlo si ritiene un Napoleone di fronte a una santa alleanza europea. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Su 5 partite abbiamo fatto 2 vittorie, 3 pareggi con 9 punti. Quasi sempre sei già dentro con una giornata in anticipo. Noi poi insomma in ultimo avremmo meritato probabilmente ai punti per il secondo tempo qualcosa in più, però rimane la grande soddisfazione per aver giocato una grande partita di personalità in uno stadio contro una squadra molto forte. La Lazio pareggia con l'ottavo gol in Champions League di Ciro Immobile. Morata segna il gol del 3-0, il suo sesto gol in Champions League quest'anno, record personale. L'obiettivo minimo di questa parte di stagione deve essere passare il girone di Champions. L'abbiamo fatto, andremo a Barcellona per giocarci una grande partita. Sappiamo tutti quanti che dobbiamo crescere, quando c'è un cambiamento, un'evoluzione del modo di giocare e della rosa, ci vuole un po' di tempo per adattarsi a tutto ciò. Siamo sulla buona strada. Grandi le scelte musicali del maestro Ferronato e di Claudia Schiattone. Buongiorno a tutti. Dunque, statistica per la Juventus, 3-0 alla Dinamo Kiev. Se continuo a pensare che l'Euro Lazio meriti un sacco di applausi. Ciao per Luigi Pardio. Pardo. Ciao Pardio. Pardio. Pardio non lo conosco. Radio Twitty? Ma sì, Radio Twitterei su Morata Immobile, che sono due punti di riferimento, insomma, assoluti delle loro squadre in giro per l'Europa, e sono in qualche modo tutte e due mezze notizie, nel senso che Morata fosse forte lo sapevamo, l'aveva già dimostrato, ma che fosse così decisivo da subito e che dopo tante intermittenze partisse così bene con la Juve era tutto da dimostrare. E su Immobile il discorso l'abbiamo fatto mille volte, cioè il giocatore che segnava tantissimo e che giustamente, anche legittimamente, poteva dare qualche dubbio perché in nazionale non aveva brillato. Mi pare che nella Champions si stia togliendo delle soddisfazioni, sì. Quindi stia crescendo proprio in termini di standing e, sì. E l'augurio è che possa essere utile anche questa crescita, possa essere utile anche a Mancini, nel senso che poi giocare, adesso mi riviene Spalletti di ieri, ma poi il concetto è grandi partite, grandi calciatori, è un po' questo, cioè quando poi tu cominci a fare la differenza in Europa, questa cosa qui sicuramente ti dà autostima. No, ti aumenta anche perché dopo una stagione mostruosa come quella scorsa ti puoi aspettare che magari finisca un po' di magia, si abbassi un attimo il vantaggio. Invece c'è anche un discorso proprio di Asticella che non è sbagliato, nel bravo, esatto. un conto è segnare, con tutto rispetto, contro la Spal o contro il Lecce o contro il Crotone in casa in campionato, un conto è giocare le grandi partite europee. Mi sembra che quindi insomma stia arrivando una consacrazione che speriamo possa durare anche in chiave nazionale, perché se c'è una cosa che la nostra nazionale quale può migliorare è l'attacco, e non secondo me per la qualità dei giocatori, ma proprio per l'esperienza, per lo standing internazionale dei giocatori. Questo è perché da tutti stare i gol è Immobile, non gli puoi dire nulla, no? Però no, onestamente, certo, fino all'inizio di questa Champions potevi avere un dubbio sul fatto che alzando l'asticella della difficoltà degli avversari, chiaro, non avevi una prova che adesso cominci ad avere, esatto, che cominci molto ad avere, chiara. Esatto. Senti, come sai abbiamo amici molto produttivi sul piano editoriale. Poi siamo buoni, quindi ne parliamo ogni dopo una vita. Presentiamo un libro, sì. Ogni giorno presentiamo un libro. Oggi presentiamo il libro del dottor Zampini. Come stai, Massimo? Ciao Massimo. Ciao, buongiorno, grazie. Ciao, com'è buongiorno Roma a voi. Nord? Raccontaci al mondo la bellezza di Roma Nord. Cosa vedi? Roma Nord c'è un sole, il sole, il verde, non ci sono case. Sì, sole pieno, sole pieno. Sole pieno. No, sì, incrocio dei pali, eh? No, poi siamo stati molto buoni, io e Pierluigi, siamo buoni in generale, no? Poi ti abbiamo chiamato e parliamo di questo libro il giorno dopo una vittoria della Juventus, mentre io propendevo per il giorno dopo una sconfitta, però non arriva mai, quindi facciamo... Vabbè, insomma, sì, la sconfitta no, i pareggi, ci sono dei pareggi che assomigliano a delle sconfitte, però, sono d'accordo. Però questo titolo è fatto apposta per attirarti l'amore trasversale di tutti gli sportivi del mondo, no? 3.000 giorni con la Juve campione d'Italia, che è fredda cronaca, eh! Esatto, bravo, non è un titolo che chissà cosa nasconda, cioè... Quello di cui non ci rendiamo conto, il senso è questo, ma anche noi juventini, nel libro, ma già dall'inizio lo faccio capire nel primo capitolo, è rivolto anche a noi, cioè comunque la si veda, 3.000 giorni con la Juve che vince sempre sono qualcosa che ha cambiato, ha cambiato un po' tutti, un po' gli juventini che ai primi pareggi oppure quando un giocatore non rende subito, siamo intolleranti e come ha detto Pierre i pareggi per noi sono sconfitte e l'idea di non vincere per un anno ci sembra il più grande fallimento che ci fa richiedere le dimissioni in blocco di tutti e gli altri, e questa è la mia visione, credo sia la realtà, sono impazziti completamente in questi 9 anni. Nel libro oltre al calcio ci sono le mille polemiche dove c'è la Feder Tamburello che interviene su Conte, il baseball contro Allegri perché una volta cita il baseball, ci sono le poste italiane su Sarri, i dilettanti contro Sarri, c'è il mondo che impazzisce. Bellissimo, qual è la Juve cui hai voluto più bene in questi 3.000 giorni? Quale Juve, quale giocatore, quale allenatore? Ma guarda, la Juve che ho voluto più bene è la prima, è quella di, cioè lo scudetto più bello per me rimane il primo di questa serie, ma di tutta la storia della Juve che io ho vissuto... E quello inaspettato è il primo dopo Calciopoli, partiamo da outsider totali, c'è Antonio Conte allenatore, Andrea Agnelli presidente, lo stadium l'inizio dello stadium sembra veramente un qualcosa di magico, non perdiamo una partita, ci sono le polemiche giuste che mi permettono di scrivere, però la Juve chiude in battuta quell'anno, quella rimane la migliore, poi col tempo forse Allegri è quello che, sai, Sarri è stato poco e non si è mai del tutto identificato con noi né noi con lui, poi onore per lo scudetto, Conte è stato grandissimo, però poi comunque c'è stata questa storia che ci ha allontanato un po', per quanto il ricordo rimarrà sempre vivissimo, e Allegri è stato quello che alla fine, preso quasi a calci quando è arrivato, per me ha rappresentato meglio di tutti, poi cosa vuol dire la Juventus, alleggerire un attimo il clima, godersi le vittorie. Qui forse vuol dire qualcosa sul tuo amico Pierre, forse vuol dire qualcosa sul tuo amico Pierre. Dobbiamo ricordarlo sempre quando io lo chiamai, è vero, su questo non ti ho citato in un altro punto su Tiki-Taka, ma su questo no, quando tra le varie chiamate che faccio disperato il giorno in cui arriva Allegri, una è a Pierluigi Pardo e dico dai ma dimmi com'è, dai tu che vedi bene tutto, io ero in spiaggia presidente località della Liguria, quindi la telefonata si è svolta con essenzialmente con i piedi a mollo camminando da una parte all'altra della battigia e c'era veramente uno Zampini depresso, cioè io non era veramente sì, era disperato, era proprio disperato. E tu cosa gli hai detto? Ma stai tranquillo, mi hai preso Allegri, per me era questo, cioè hai preso un grandissimo allenatore, molto bravo, cioè nel senso mi ha detto non credere che, mentre noi lo trattavamo un po' Allegri come se arrivasse uno non si sa bene come e perché, insomma E alla fine la tua forza è stata anche quella. Senti, quale giocatore invece in questa epopea? Secondo me c'è un momento chiave, che ci sono quelli rimasti tutti gli anni, va bene, cui sono legato, ma il momento chiave è quello dell'arrivo di Tevez, secondo me. Perché io almeno lo riconduco a quello, perché c'è una Juve molto forte che trova su una integrità di squadra, compatta, fortissima, con Conte allenatore, trova la sua forza su quello, ma manca il top player. La Juve è famoso, il mitico top player. Hanno preso Pogba, che lo è diventato, Vidal non lo era ancora, insomma era tutto, Pirlo lo era, ma era apparentemente sulla fase del ideale del tramonto. Prendono questo giocatore, sì, in leggero calo nel Manchester City per i rapporti con Mancini, ma comunque uno dei più famosi del mondo, arriva, mette fuori la 10 dal balcone, si ricordo anche quel giorno bene nel libro, e i tifosi impazziscono sotto, che è una cosa non da juventini in generale, cioè impazzire per Carlos Tevez dopo 2-3 scudetti, e invece quello è stato secondo me il segnale in cui la Juve diceva non ci fermiamo ai 2 scudetti. Io vi ricordo che nella mia vita da juventino ho vinto tantissimo da tifoso, ho visto vincere tanto, ma non ho mai visto più di 2 scudetti di fila, mai. Nell'era di Trapattoni, Lippi, Capello, eccetera, eccetera. E qua ci fanno capire che il ciclo vuole andare avanti e anzi progredire, e in effetti sarà così arrivando fino a 3.000 giorni. Sì, adesso vediamo quanti giorni dura ancora Pierluigi. Vediamo. Ecco, la vera domanda è: sei ottimista sul fatto che duri un altro anno? Ma qualcuno mi ha detto: se hai fatto il libro ora non sei ottimista, però non è così. Nel senso, io volevo poi celebrare appunto quello che è accaduto, al di là di come andrà dopo. Ma ottimista no, però come voi sapete, pochi più di voi lo sanno, non lo ero prima dell'ottavo, del settimo, del sesto, del quinto, perché ripetersi è impossibile. Poi abbiamo cambiato tutto, c'è l'allenatore esordiente, siamo partiti in modo un po' discontinuo, le rivali sono più forti, insomma è complicato, però sì. Io poi vedo... Sì. Appartiene, cito anche il mio amico Mirko Scarchilli che ogni tanto ci ascolta, appartiene a quella categoria lì di juventini romani, sono tutti e due romani ma ci saranno anche non romani, non particolarmente ottimista, cioè, ma Zampini di natura, cioè quando l'hai mai no, sentito ottimista? Dirti, appunto adesso ho citato l'episodio Allegri che è sicuramente il più eclatante, però in assoluto è davvero, no, tu non sei uno di quelli che no, non sei ottimista sempre... No, non sono ottimista, non sono neanche il disfattista che appunto pareggia la Juve tre partite e diventa tutto da buttare, però è vero, sì, non sono ottimista, ma in questo specifico caso di questi anni io davvero credo che sia incredibile quello che è successo, cioè il terzo, e poi ci siamo abituati, diciamo ogni anno la Juve vincerà, è scontato, ma per me è incredibile, cioè ora siamo tutti sorpresi che la Juve pareggi delle partite, sia in ritardo e forse non vincerà lo scudetto, ma ragazzi, 10 anni fa ha vinto l'ultima, è impossibile essere ottimisti, secondo me, cioè non è possibile che continui all'infinito, però speriamo. Allora, dato che noi, come detto, siamo molto buoni, abbiamo già iniziato l'opera di divulgazione, proselitismo, marketing se vuoi, perché ho acquistato una copia di questo 3.000 giorni con la Juve campione d'Italia. A proposito, Pier, mi devi 9 euro, cioè la metà, perché è regalo comune, perché sarà il nostro regalo di Natale a Boris Sollazzo con l'autografo dell'autore, l'avvocato Zampini. Guarda, l'avvocato Zampini è un amico, quindi io l'ho comprato e ho anche vissuto oggi nel mio posto di lavoro l'umiliazione di doverlo ricevere, nel senso, immaginate un napoletano storico che apre questo pacchetto e trova, diciamo, questa copertina che è inequivocabile, è stato molto traumatico, cioè sarebbe stato più facile ammettere un cambio di sesso tipo Ellen Page. grande classe di Boris, devo dire, perché grande, sei come uno di quelli che si toccano le cicatrici per sentire se fanno ancora male, no? Sì, esatto, però io aspetto il sequel di Massimo che è 9.000 giorni senza coppa. Giuro me l'aspettavo questa, eh. Sì, questa è, questa si presta ovviamente. E poi, però... io poi mi risponderò con 11.000 giorni senza scudetto, così anticipo anche la battuta di Massimo. Sì, vabbè, però, insomma, attimo. Però essendo Massimo uno che quando ha scritto il suo primo libro sulla Juve, o comunque quello di Fandango, il manuale per i tifosi juventini, sì, che è una meravigliosa arringa difensiva della Juventus, no? Cioè il cercare di dimostrare l'indimostrabile, cioè che la Juventus sia stata la più forte e basta, io mi sarei aspettato effettivamente il 9.000 giorni senza coppa, cioè Massimo è talmente bravo con la sua penna che sarebbe stato più divertente raccontare il premio agognato piuttosto che la gioia. Per voi sì, sarebbe stato più divertente, quello è ovvio, e magari lo faremo, però per noi questo periodo, e questo è il fatto che qualche tifoso juventino poi un po' annoiato che fa credere al mondo che non ci stiamo godendo questi scudetti, invece secondo me rivivendoli è veramente divertente per me, davvero, quando prima citavo la Feder Tamborello, oppure ecco, io faccio riporto due citazioni all'inizio del libro, prima, sai, nelle classiche dediche o quello che è, la prima citazione è questa, io leggo solo questa, Biel, dalla stampa del 27 luglio 2020, Biel, dalla finestra del quinto piano getta piatti e bicchieri sui tifosi della Juventus che festeggiano, denunciato dalla polizia. Cioè, ma questo è per capire questo periodo incredibile, cosa stiamo vivendo. Non vivo a Biella, non eri tu, non eri tu. No, non vivo a Biella, vivo a Roma. A Biella penso che ci sia una discreta comunità di tifosi della Juve, nel senso che la provincia piemontese è molto juventina, mi dicono, mentre la città ovviamente ha un cuore molto diviso a metà tra Toro e Juve, forse sono anche più granata, adesso non lo so e non mi attendo. Non ti ci mettere che qua cominciano tutti, se no, se c'è un sondaggista che ci può dare dei dati in questo senso, però ecco, la vita è bella. La vita è bella. Ragazzi, state con me. Un rapido stacco. Poi abbiamo anche un mix di voci più relative alla cronaca che vanno dalla Juventus a Napoli. Ma ve lo vedete Pirlo urlare in campo come Conte? Ciao. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Avete preparato qualcosa di speciale per il 750esimo gol in carriera di Cristiano Ronaldo? Ma magari ci farà lui qualcosa di speciale. Ogni partita quasi sta a festeggiare il record di Cristiano e questo è soltanto un piacere per noi far parte del suo percorso calcistico che è strabiliante. No, ha fatto rumore quella frase di ieri. Non so chi se la possa... chi se l'è presa, perché era una battuta che ho fatto qua con te, perché vedevo che qualcuno continuava a insistere su alcune cose, invece io vado avanti per il mio lavoro come ho sempre fatto, non ho nessun problema con nessuno, so che sono giovane, lo sanno anche gli altri, però devo migliorare e lo stiamo facendo giorno dopo giorno. Tecnicamente non posso dirgli nulla, però lui è il capitano di questa squadra. Voglio vederlo con meno muso, meno musone. Non è più un 22enne, un 23enne, ha 29 anni e penso che in questo momento deve fare quel salto di qualità dove gli rompo le scatole tutti i giorni. Bonucci, Pirlo e Gattuso nell'ordine. Pier, commentami una di queste tre voci a tua scelta. No, beh, su Pirlo è chiaro che secondo me il concetto è la crescita, no? Lui è consapevole del fatto che è un esordiente, un debuttante, sta migliorando, migliorerà come tutti, poi se basterà alla fine dell'anno io questo non lo so, però non c'è alcun dubbio che sia, ci sono sempre degli eccessi, no? È chiaro che hai fatto una scelta che è rischiosa di suo, perché ti sei rivolto a un debuttante, per quanto con tutte le caratteristiche, il physique du rôle di uno che può fare bene, e quindi insomma questo è, poi gli eccessi, il positivo o il negativo, più il negativo in queste prime giornate dell'opinione pubblica, ovviamente derivano da questa cosa qua, ma è l'equilibrio, ecco, l'equilibrio. Sì, anche perché dopo 3.000 e fischi a giorni, il 26 luglio erano 3.000 e... tre giorni, scrive Zampini nel suo libro. È chiaro che un pareggio a Benevento, che è pareggio Crotone, un pareggio con Verona, fanno rumore, cioè, non posso non fare l'obiettivo rumore. L'obiettivo della Juve deve essere vincere il campionato, cioè non è che ci si può nascondere, perché ha la rosa per farlo, come secondo me quest'anno ce l'ha l'Inter e probabilmente ce l'ha anche il Napoli. Appunto. E quindi l'obiettivo deve essere quello. Allora, io posso dirti, io confesso a mio amico Sollazzo un sogno. Che proprio in quest'anno, in questa stagione, se crediamo nelle stelle, nei giochi del destino, nell'imponderabile che governa il calcio, rendendolo così. Ma non sottovalutare Ibra, però. No, però avete già capito cosa. Sì, certo, però avete già capito cosa, dove voglio arrivare, l'ha capito anche Boris. Dopo aver visto una punizione segnata sul primo palo da Insigne, la serpentina di Politano e il tiro di Fabian Ruiz, era chiaro che contro la Roma giocavamo in 12. Se Diego, che adesso c'è un po' più di tempo libero, decide di guardare tutte le partite come ha guardato Napoli-Roma, possiamo anche farcela. È ovvio che tutti, io forse quest'anno è l'unico anno in cui saremmo tutti felici come saremmo stati felici e siamo stati felici per il Leicester di Ranieri, cioè sarebbe una favola, mi sembra molto difficile, però ecco, se scendesse una qualsiasi divinità, cioè Diego, e mi dicesse quando lo vuoi vincere lo scudetto, poi non lo vincerai per 50 anni, che è più o meno quella la nostra media, e io gli dico quest'anno, sicuramente, cioè nel senso che sono è successo, d'accordo. Siamo rimasti orfani, è successa una cosa enorme. E ecco, io forse scriverò ogni giorno, ogni anno un libro, 300 giorni senza Diego, 600 giorni senza Diego, perché per me d'ora in poi non siamo più nel 2020 ma nel 60 dopo Diego. Posso chiedere a Zampini una settimana fa, probabilmente oggi, fosse proprio giovedì, abbiamo fatto una puntata ovviamente sul filo della commozione che c'è ancora io e Diego, posso chiedere a Zampini io e Diego? Perché poi c'è anche il punto di vista dei rivali, no? No, no, certo, ma al di là di rivali, cioè per me Maradona è ma è quasi imbarazzante dirlo che tipo di giocatore sia stato. Poi io non impazzisco, devo dire, in generale per le classifiche. Cioè qua che se uno non può dire forse era meglio Cruyff o Pelé, io non ho idea, non ho idea, ma neanche ora, quando mi si chiede tra Messi e Ronaldo, faccio sempre fatica. E tra l'altro tra epoche diverse ancora di più. Ma ci ho detto, ragazzi, cioè, Maradona, noi siamo cresciuti, io sono cresciuto personalmente con la Roma con Falcao, la Juve con Platini, il Toro con Junior, eccetera, eccetera, e poi ho visto il Milan degli olandesi e c'è il Napoli di Maradona, con Careca, Giordano, cioè l'Argentina di Maradona. Maradona, non so neanche come giudicarlo, cosa dirvi. Tra l'altro il carisma del personaggio, ma anche come rivale, cioè tutto, Maradona è Maradona, è il nome che tu dici, Diego Armando, tu uno fa la giocata ai giardinetti, cioè è un giocatore, non so, mi rifiuto di continuare a spiegarlo. Perché al di là dell'aspetto calcistico, conoscendo Zampini, conoscendo un po' Zampini, e comunque lo dico, la sua sensibilità, ma Zampini credo che ami gli irregolari, no? Poi magari quando deve costruire una squadra, se mai la dovesse costruire. Però ecco, cioè, secondo me è un irregolari, tipo non campionati irregolari. State buoni. È un tipo umano che secondo me ti piace, no? Tutta la letteralità di Diego. Sì, ma ti dico la verità, però il discorso umano io neanche arrivo in generale ad affrontarlo, ma non lo affronto per Cristiano Ronaldo, per Maradona, praticamente per nessuno. Cioè a me sinceramente, io anche quando mi dicono deve essere un modello, Ronaldo ha sbagliato il tweet, Maradona faceva questo e quest'altro, cioè io sinceramente di tutti i calciatori ammiro e sono estasiato di quello che fanno in campo, il resto mi colpisce il carisma e Maradona ne era carico, ma mai nella vita mi permetterei, ma non con lui, con chiunque, in vita, non in vita, di giudicare le vite e le vite singole di ognuno, ma perché io chi sono, chissà quante cavolate farò e ho fatto. Quindi quello l'hai fatto. Nella seconda metà della puntata le passeremo tutte in rassegna. No, ma resta quella dichiarazione, cioè quanto ha detto Fontana Rosa, l'ho già citato fin troppe volte in questo periodo. Maradona ha fatto tantissimo per la vita di ciascuno di noi, napoletani, non napoletani, tifosi del Napoli, non tifosi del Napoli, ha fatto qualcosina in tutte le nostre vite. E per questo io ricordo a Boris Sollazzo, a proposito di quei deliri onirici, che quest'anno chi ha vinto il titolo NBA? Kobe e Los Angeles Lakers, però era un pochino più, non dico più pochino più scontato, perché non era così scontato, però era un pochino più facile rispetto a Napoli che vince lo scudetto. Io dico solo una cosa, che Maradona ha fatto una cosa incredibile, cioè se Zampini avesse scritto libri a metà degli anni 80 avrebbe scritto 3000 giorni senza tricolore, esattamente il contrario, quindi già questo dovrebbe far capire che, sì, lo so, l'hai vissuto, ma non l'hai scritto. Avevo 15 anni. Vabbè, adesso non è che possiamo ricordarlo. Però dico, lo Zampini della metà degli anni 80 avrebbe fatto questo, ed è un po' quello che lui diceva nel film di Custurizza. Siamo andati a Torino e ne abbiamo fatti 6. È stato l'unico momento della nostra storia in cui non solo eravamo all'altezza della Juve, ma eravamo sopra la Juve. E una cosa incredibile che secondo me fa è che adesso voi avete chiamato me per rivaleggiare con Massimo. In realtà io sono d'accordo con gli juventini quando dicono che la rivalità tra Juventus e Napoli non ha ragione di esistere, perché la Juventus ha vinto 40 scudetti, poi non mi ricordo mai con il riporto di 2, 3, 4 quanti sono veri, quanti sono falsi, quello non lo riesco a ricordare, il Napoli solo 2, quindi la rivalità non ci dovrebbe essere, ma la verità è che gli juventini, come tutte le altre squadre, ci hanno sempre invidiato il fatto che il migliore non ha giocato nella loro squadra, ma nella nostra. E questo, 7 anni di Maradona riempiono lo spazio vuoto di 35 scudetti, 33, 34. E non è poco, cioè fa capire quanto quel carisma di cui parlava Massimo arrivasse oltre le vittorie, arrivasse oltre i record, fosse qualcosa di magico. Quindi se me lo dite, bando alla scaramanzia, sì, magari, sarebbe bellissimo, sarebbe anche giusto. Grazie ragazzi, grazie Massimo, grazie Boris. Vi abbraccio entrambi. Mando la borsa, una volta tanto più o meno in orario, e poi apriamo la pasticceria. Mazzato, ma se questi non dovessero vincere il decimo scudetto consecutivo potrebbero farsene anche una ragione. A Napoli 25 anni e stanno ancora festeggiando uno scudetto. Santo Dio, che roba! Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Rivera è stato un calciatore completo. Mazzola era essenzialmente un uomo gol. Dicevano che era lento, però secondo me non era il suo modo di correre che lo faceva sembrare. Era un giocatore molto veloce. Avversari con le maglie dell'Inter e del Milan, compagni con la maglia della nazionale. Che fenomeni, Sandro Mazzola e Gianni Rivera. Sono Dario Ricci e ogni domenica alle 16.30 a Olimpia vi aspetto per raccontarvi i grandi duelli della storia dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Tutti convocati. Biscottino. Six different teams in Champions League. Zlatan Ibrahimovic, self-made millionaire in the top league. Zlatan Ibrahimovic, he's the kid with the golden feet. Zlatan Ibrahimovic, shot shine the goalkeeper, this man on fire. Zlatan Ibrahimovic, football hitman, fi high, high kick, high flyer style. Indovina chi ha scelto questo pezzo, Pierluigi? Non lo so, non lo vuoi. No, dimmi chi l'ha scelto. Buongiorno, Filippo Maria Ricci. Beh, ah, certo, scusa, il Raver. Scusa, dimenticavo. Beh, buongiorno, buon pezzone di chi è questo pezzone? Simon & Garfunkel. No, questa è solo una band sconosciuta, però è dedicata a Zlatan e noi l'abbiamo scelto mica per caso, però, scusa. Spiega. Dico, certe cose i nordici non li fanno, no? Parliamo di biscotti e quindi uno Svezia-Danimarca del 2004. Ho rischiato l'arresto. Perché? Prenda cronaca. Perché Marco Foroni e Bonan lì tutta la line di Sky mi dice facciamo un pezzo ironico sul fatto che faranno il biscotto. E quindi io ho girato come un pirla fra i due alberghi di Svezia e Danimarca che erano distanti 100 metri con una scatola di biscotti, un pezzo che voleva essere tipo Iene, anche abbastanza divertente. Se non che a un certo punto mi ha fermato quello della sicurezza svedese e dopo un'ora mi chiama Gianni Federico, mio della line di Sky, lavora ancora lì, insomma, mio grande amico, dicendo amico mio ti voglio bene, siamo tutti orgogliosi di te, è appena uscita un'ansa. E che è successo? Ma ti stanno arrestando? No, non mi stanno arrestando, grazie a Dio, non ho fatto niente di male. Insomma, c'era molto orgoglio sul fatto. Sì, però hai rischiato di prendere dei cartoni se non arresto. Dei cartoni e poi comunque alla fine il biscotto l'hanno fatto. Anche questo. Ma va, esatto. Con tutto l'affetto per gli amici scandinavi, grande amicizia, relazioni internazionali stupende, grandi socialdemocrazie, però il biscotto l'hanno fatto. No, ma perché, anche perché il welfare, però biscottone è partito. È già iniziato, d'altra parte è già iniziato il grande tombolone dell'Immacolata, cioè il grande gioco dell'Immacolata, giocheranno il 9, però se si può partecipare anche via WhatsApp vocale 349-238-6666 fino a 9 saremo qui a provare a capire se gli amici di Madrid e di Mönchengladbach si metteranno ai fornelli. Sì, ma il punto è, scusa Filippo, poi faccio andare avanti te, è che la farcitura del biscotto è complessa. Cioè come esatto, si dice? Scusa, c'è un termine. Anche sposato con una pasticcera, quindi è un biscotto liquido. Pierre, no, è un biscotto no, liquido. No. Un come bicchierino. Diresti tu, perché no. È troppo liquido. No, è difficile. In mano. Ma lì dipenderà dall'Inter, però insomma è chiaro, dipenderà dall'Inter, però è un intreccio molto particolare. Mi sentirei di non escluderlo, nonostante in Spagna facciano le spallucce, facciano un po' quelli che figuratevi, non mangiamo dolci. Io l'ho citato oggi, Santi Cannizzares è molto simpatico, tipo, e l'altro giorno l'hanno presa alla sprovvista, no? Gli hanno detto perché qua è subito rimbalzata poi questa cosa, quindi ovviamente un po' di coda di paglia ci deve essere, perché diciamo subito la sera dopo le partite, in Italia parlano del biscotto, lui si è messo a ridere, dice no dai non ci posso credere, però voglio dire, infatti io l'ho anche scritto, dico qui comunque lo sanno che il concetto di pazza Inter è universale, no? adesso fidarsi dell'Inter non è semplicissimo, quindi se al primo tempo vincono 4-0 bene, però se no è difficile che tu possa pensare se primo tempo vincono 4-0 è biscotto sicuro, No, tra l'altro posso invece dire una cosa da anima candida, che durante, riguarda proprio gli spagnoli, che durante l'Europeo del 2012 con la Croazia, la Spagna, com'era? Esatto, la Spagna ha battuto la Croazia all'ultima partita, noi ci eravamo fatti tutti i film sui biscotti eccetera eccetera, invece in realtà si sono comportati benissimo. Me lo ricordo benissimo, lì, io lì ero presente, ero nel ritiro della Spagna e loro veramente dicevano, erano abbastanza inorriditi, perché non è perché sono anime candide, però insomma era vero che poi giocavano sempre per vincere. Chiaro, noi eravamo scottati dal precedente appunto molto aulico, molto nordico di Danimarca-Svezia, che più di, diciamo, no, meno di quelli nessuno poteva farlo, poi, e l'avevano fatto. Ragazzi, se l'Inter va avanti 3-0 al 60esimo con lo Shakhtar e quelli stanno 1-1 all'82esimo, adesso non voglio fare invece non l'anima candida ma il complottista, voglio dire, se tu all'82esimo sei sull'1-1, una arriva prima del girone e l'altra è contenta perché è qualificata, non siamo neanche più nella categoria del biscotto. Il biscotto vero è quando, e succede raramente nella storia del calcio, c'è una partita dove l'interesse delle due squadre coincide o da prima dell'inizio del match o da quasi subito. Ecco, questo secondo Germania me Germania Ovest-Austria, no? Germania Ovest-Austria dell'82, certo, appunto. Cioè quella è una schifezza perché non hanno mai giocato, sì. Allora vabbè, d'accordo. Esatto. Però io qui comunque è troppo pericoloso perché appunto io poi mi occupo del Madrid. Il Madrid può arrivare primo se vince o quarto addirittura. Certo. Cioè, c'è anche il dibattito oggi, ho visto, sul fatto che forse non conviene arrivare terzi, una cosa invece molto italiana. Sull'evitare, ho letto un articolo No, figurati, a Madrid, cioè, meglio eliminati che l'Europa League, quello è chiaro. Ecco, sarebbe un'onta proprio impensabile. No, andare in Europa League, proprio la Coppa del Siviglia, capito? No. No, ma comunque. No, poi tra l'altro hai scritto anche del dibattito che è avvenuto qui in Italia a Sky tra Capello e Cambiasso dice no, il Real Madrid queste cose non le fa, loro giocheranno come fosse una finale, di solito quando una finale la vincono praticamente sempre, non si sono preparati in questa maniera contro lo Shakhtar, viene da domandarsi anche perché, ma questo lo aggiungo io. E Capello ha detto da italiano, sì, va bene, però teniamo conto di tutte le variabili, anche perché questo Real non sembra quello che va in campo e ha la vittoria in tasca contro il Borussia. No, questo è il tema. Cioè, vai Pier. Questo Real, se all'80esimo è secondo in classifica, qualificato, in questo tempaccio che c'è, con la bufera che c'è in questo momento, riesce in qualche modo a portarsi a casa la qualificazione, poi se ne riparla a febbraio, cioè è abbastanza umano. Ma è chiaro che se la porta a casa, sono arrivati secondi negli ultimi due anni, infatti poi sono anche usciti agli ottavi, primo anno con l'Ajax che era un rivale abbordabile, l'anno scorso gli è toccato il City, hanno perso l'andata e ritorno, arrivederci e grazie. Ma questi sono, insomma, questo è un Real Madrid assolutamente indebolito, insomma, è spaventato, è preoccupato e tutto, per cui insomma è chiaro che primo punto la qualificazione. Senti, ma arriva, non dovesse arrivare Zidane via, no? È sicuro? Allora, ma adesso, cioè, io, guarda, qui è incredibile, perché poi appunto gli umori sono, è un continuo, no, una montagna russa. Già dopo la sconfitta a Kiev, insomma, c'è stato un momento veramente di panico, per cui no, Marca e il Mondo sono andati fortissimi sull'esonero immediato. Vabbè. Poi dopo adesso tutto più tranquillo, però sabato c'è una partita a Siviglia complicatissima. Il Madrid è già indietro in campionato, per cui se dovesse perdere a Siviglia, vediamo, perché diciamo non, è impensabile che il Madrid esca dalla Champions, per cui se perdono sabato non vorrei che diciamo ci fosse già il gesto folle per cui lo cambiano e fanno fare a Raul o a Pochettino, perché i nomi sono questi due, la partita col Borussia, che è una follia, perché che senso avrebbe prendere Raul, Filippo? Pochettino, me ne faccio una ragione. Raul, la solita scelta continuista, hanno fatto lo stesso, no, l'hanno fatto con Zidane, poi l'hanno fatto con Solari, adesso lo farebbero con Raul, tra l'altro soluzione anche economica, perché bisogna anche dire, ieri il Madrid ha presentato il bilancio, insomma mancano un sacco di soldi all'appello, non c'è una lira. perché poi ecco tu prendi anche Pochettino, a me infatti faceva, io pensavo viene Pochettino è perfetto, perché Pochettino ha già sofferto al Tottenham e per anni non gli hanno comprato nessuno perché dovevano fare lo stadio, ecco adesso viene qui di nuovo, c'è uno stadio da coprire, non da fare, però mercato al momento non se ne può proprio parlare, poi dopo vedremo se riescono a vendere qualcosa, però al momento per cui è una situazione molto molto particolare per il Real Madrid. No, non si è mai sentito di un Real Madrid che è lì che vuole cambiare allenatore eccetera e ne fa una questione di soldi. Questa è anche una questione di soldi, come accade per molti club, magari anche la Juventus compresa, nel momento in cui credo sia stata anche una delle, non la principale, ma una delle voci a favore di Pirlo, che comunque guadagna un ingaggio piuttosto basso nel complesso. Allora ragazzi, fermiamoci un istante, traffico, poi continuiamo il dibattito volendo con gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde, vi farei mandare dei WhatsApp, ma abbiamo il computer bloccato, informazione di servizio. Paura del biscotto di Madrid? Sì, perché non sarebbe la prima volta, ma soprattutto non è detto che l'Inter vinca così facile, visto gli alti e bassi che ha. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, la mia unica paura da interista non è tanto i biscotti e guardare i risultati degli altri, perché gli ultimi due anni, come l'anno scorso guardava Barcellona, giochi col PSV, giochi con l'Entra Francoforte, partite scontate, indipendentemente dagli altri risultati, siamo noi che non abbiamo mai vinto la partita che dovevamo vincere. Secondariamente il Real Madrid non capisco perché dovrebbe accontentarsi di un pareggio col Mönchengladbach, praticamente arrivando in seconda per eliminare l'Inter. Cioè, forse cercherà di vincere. Quindi biscotto, boh. Beh, non si può dar torto al nostro amico WhatsApp. È lo scenario di partenza. Sì. Anche perché poi, appunto, non è detto che l'Inter vinca. Io credo che, torniamo a quello che dicevamo ieri con Paolo Condò. Cioè, il rischio qui del biscotto è se l'Inter vince largo, ma è tutto da verificare. Se l'Inter vince largo al 70° con lo Shakhtar e c'è una situazione di sostanziale parità lì, allora non nessuno puoi pretendere, rischia, certo. Ma davvero non puoi pretendere a 10 dalla fine che si buttino davanti per magari, certo, che questo fa parte della natura umana. Però fa bene l'ascoltatore Piera a ricordare quell'Inter Barcellona dell'anno scorso, in cui il Barcellona è arrivato qui dicendo vabbè ragazzi, veniamo con la squadra, non se la porta la casa. L'Inter non se la porta la casa, e da questo punto di vista l'entusiasmo giusto, condivisibile, al quale anch'io mi unisco, della partita in Germania, che è stata un'ottima partita, però non deve distrarre. Cioè, è una partita complicatissima con lo Shakhtar, complicatissima proprio. Cioè, quindi. Intanto aspettando la riffa del biscotto di mercoledì, martedì ci togliamo il pensiero di Messi contro Ronaldo in un amichevolona, Filippo? Sì. Dovrebbe, vediamo se gioca, ne ha già saltate due, non gliene farà saltare una terza, no? Perché c'è anche questo, Messi è rimasto a casa nelle ultime due in Champions, immagino che non, insomma, a beneficio del non pubblico, però almeno del pubblico a casa, ci sia questa sfida Messi Ronaldo. Sì, esatto, insomma, la fai te, Pierre. Vediamo bene. Non è un dettaglio, adesso è la presenza di quei due, non è un dettaglio. No, appunto dico, si giocano solo il primo posto, che comunque, attenzione, è rilevante perché comincia a delinearsi un quadro abbastanza interessante. Il primo posto ci sono tutte le squadre più in forma, per cui arrivare secondo te la rischi poi dopo a febbraio, per cui insomma mi sembra rilevante. Barcellona incredibile, nessun allenatore aveva fatto 5 su 5 all'esordio in Champions, nemmeno Guardiola. Koeman insomma, in qualche modo riesce ad andare avanti, il campionato insomma, è andata malissimo per ora, adesso si stanno riprendendo, cioè, ne hanno vinta una, mettiamola così, però in Champions vanno, adesso c'è Griezmann dopo che è stato intervistato da Valdano si è tolto tutto il peso psicologico che lo diciamo che lo frenava, va benissimo, hanno ritrovato pure questo Braithwaite e vediamo, insomma è una partita interessante, speriamo, no, sinceramente se non dovesse esserci Messi sarebbe un peccato, insomma spero che non lo facciano. Sì, anche perché sono due che tengono molto alle, insomma, all'ego personale, sì, dai, agli obiettivi personali. Ieri Ronaldo 750 gol, tutto foto, contento, dai, una bella foto, eccetera eccetera. Invece faccio Filippo Maria Ricci per Luigi. Ieri Neymar che espugna con il Paris Saint Germain Manchester, sponda United naturalmente, quindi Old Trafford, e poi chiama Messi. Vieni, voglio giocare con te, chiama Messi a Parigi o vuole andare lui a Barcellona, questo non è dato sapere, però la domanda... Poi un terzo continente da scelta, come arrivi? Dove vuoi? Però la domanda è chi paga? Non so. A parte che scusa, Neymar adesso si può giocare con Neymar. A suo dettaglio, vabbè, allora paghi tu. Mi devi 9 euro del libro di Zampini. Dove lo faccio giocare? Nella Barbense, qua a FIFA. No, ma insomma, è chiaro che insomma, è un endorsement tra i più clamorosi, no? Tra i più. Per il fatto comunque i calciatori mantengono una parvenza di diplomazia. Quel dico non dico, ieri è stato veramente impressionante. Dico e basta. Voglio giocare con lui. Se la rideva, tipo... hai visto come rideva? Hai visto? Rideva. Sembra il ritorno di Liam Neeson. Giocare con Messi. Paga lui allora. Però scusa, che a me, io la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa. Ci giocavi con Messi, perché te ne sei andato? Lo so, perché qualcuno pagava, amico 222 mio. Milioni bravo, di motivi, bravo, cioè. Bravo, esattamente. Ma qui si tratta della stessa cosa. Per lui, anche esatto, 35 milioni di motivi per lui. Qui si tratta della stessa cosa. Quindi la domanda è legittima e pertinente. Io non credo che in questo momento il Barcellona abbia la possibilità di richiamare Neymar. Anzi, ne sono. Mi confermi, no dottor Ricci? Sì, non ce l'ha. A Parigi tutto può succedere. E quindi magari pagano loro. Intanto ieri ultimo spunto della serata di Champions è il Siviglia che fa fare a Giroud praticamente tutti l'equivalente di tutti quello che ha fatto in carriera, 4 in un botto. Sì. Ma non segna mai, cioè l'unico. Vabbè, ha vinto un mondiale da centravanti, sì, non è vero. Ha vinto un campione del mondo, Ma sì, campione del mondo. L'unico centravanti titolare. Che non ha mai tirato in porta, ragazzi. Non ha vinto un mondiale. Col sinistro, di testa, di rigore, tutte le ha fatte. Ieri, buon giocatore. Un poker. Buon giocatore. Sì. Assolutamente. La cosa è: le riserve del Chelsea sono infinitamente superiori alle riserve del Siviglia. Questa è la morale. Perché hanno fatto. Il Chelsea ha cambiato 9 uomini, il Siviglia 8, e poi li hanno presi a pallate. Appunto, e Giroud sembrava veramente il miglior Lukaku. Per cui niente, adesso il mio Lukaku adesso non allargare adesso non, questo mi sembra sia sacrilegio, no? Mi sembra sia sacrilegio. Vabbè ragazzi, è bellissimo, divertentissimo, ci vediamo martedì in pasticceria. Va. Filippo, va bene, martedì, sì, no, mercoledì. Sì. Chiamiamolo prima, facciamogli mettere due dischi i prossimi giorni, dai. Io figurati, lo chiamerei di giorno. Alto col tango. È che è come per Neymar, poi chi paga? Cioè, se chiamo tutti i giorni Ricci. Ciao ragazzi, è stato bellissimo. Con Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.